Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. La responsabilità sociale diventa un valore competitivo non più solo per i brand, ma anche per i singoli. Arriva in Italia onit.org, la social community dello sviluppo sostenibile che favorisce e misura l'impatto sociale di persone, aziende e organizzazioni. Fase 3 post coronavirus, tempo di ripresa anche per il turismo, imperativo promuovere quello di casa nostra. Ecco il generatore di idee Esplora Italia. E poi dalle biciclette all'arredamento, la crisi rilancia la rental economy, l'incertezza favorisce il noleggio anziché il possesso. Uno dei risvolti positivi della pandemia è stato mostrarci quanto rapidamente possiamo modificare in modo radicale i nostri stili di vita. La crisi ha costretto quasi subito aziende e persone a rinunciare a pratiche ritenute da tempo essenziali, come viaggiare spesso in aereo o lavorare in ufficio. Al contempo, i cittadini si sono ampiamente dimostrati disponibili a fare dei sacrifici per il bene dei professionisti sanitari e delle altre figure lavorative essenziali, nonché delle persone più a rischio, come gli anziani. Inoltre, molte aziende si sono attivate per aiutare i propri lavoratori, i clienti e le comunità locali, facendo un passo nella direzione di quel capitalismo degli stakeholder verso il quale in precedenza si erano impegnate a parole. È evidente che esiste la volontà di costruire una società migliore. Dobbiamo sfruttarla per avviare la ricostruzione da zero di cui abbiamo tanto bisogno. Questa pandemia rappresenta un'occasione unica ma limitata nel tempo per riflettere, ripensare e resettare il nostro mondo e creare un futuro più sano, equo e prospero. Parole quelle che abbiamo appena ascoltato di Klaus Schwab, fondatore e direttore esecutivo del World Economic Forum. Ha appena annunciato il tema dell'edizione 2021 The Great Reset. Parlare di impatto sociale, di nuovo capitalismo, uno dei temi cari a questo programma da sempre, ormai non è più questione accessoria ma fondamentale, strettamente collegata al cuore economico del mondo e a tutto l'universo consumo. Ecco perché questa sera vi raccontiamo l'arrivo in Italia di onit.org, la community delle azioni sociali, punto d'incontro per persone e organizzazioni che desiderino creare un mondo più responsabile. Nata in Spagna, dove si è attivata con molte iniziative per l'emergenza coronavirus, Onit permette di definire il proprio curriculum sociale, tracciare la propria identità sociale al pari delle imprese, misurando l'impatto delle azioni sociali. Enrico Mattia Pegoraro è il country manager per l'Italia. Onit è una, nasciamo come tecnologia dedicata alle persone. Nasce in Spagna, è uno spin-off di Sitonize, un'importante impresa tecnologica qui in Spagna, e appunto ci dedichiamo alla gestione, misurazione e collaborazione nelle varie azioni sociali e di volontariato. E la possiamo definire come la social community dello sviluppo sostenibile e abbiamo l'obiettivo di aiutare le persone, le organizzazioni e le città, non solo appunto in Spagna ma in tutta Europa, in Italia appunto a generare un reale impatto sociale. Durante il Covid siamo stati in grado di gestire più di 200 iniziative e ci siamo resi conto in quel momento di come appunto le persone avessero la necessità di ritrovarsi in un'unica comunità, no? Per offrire e chi a sua volta cercava aiuto. Abbiamo la fortuna di avere importanti advisor, tra cui Interbrand, non solo appunto Spagna, ma Interbrand anche Italia. Quindi come funziona? Una sorta di vetrina in cui ogni persona può trovare l'azione collaborativa di impegno, di solidarietà più vicina alla propria sensibilità e attivarsi? Sì, assolutamente. Noi siamo sia un B2B, quindi abbiamo una piattaforma digitale che offriamo alle organizzazioni e per organizzazioni intendo quelle private, pubbliche, con o senza scopo di lucro, quindi parlo di imprese, enti educativi come l'università, ONG, fondazione, enti pubblici, eccetera, e un B2C che quindi è una app mobile dedicata alle persone, che quindi sia attraverso la piattaforma digitale che attraverso l'app lo definiamo come un luogo virtuale per creare iniziative e contattare le organizzazioni, dare visibilità alle proprie responsabilità sociali per le imprese e soprattutto contribuire alla misurazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite. Ecco perché voi questo aspetto della misurazione è molto interessante, proponete sulla base di un algoritmo appunto la misurazione, il rating, il proprio rating sociale, quindi da inserire quasi nel curriculum. Assolutamente, come hai detto giustamente, attraverso la nostra tecnologia siamo in grado di misurare il reale contributo di persone e organizzazione ai cosiddetti 17 obiettivi di sviluppo sostenibili, quindi definiti dall'Agenda 2030 dell'ONU. Le organizzazioni avranno proprio dei report sia in termini di grafici e numeri. Per quanto riguarda invece le persone, che è un nostro valore aggiunto dell'Onit, le persone potranno usufruire di un proprio curriculum sociale, quindi un track record inalterabile che qualsiasi persona potrà sviluppare durante la sua, diciamo, iscrizione presso Onit. Innanzitutto vorrei dire che il nostro obiettivo appunto è quello di fornire uno strumento di aiuto in questa fase post-Covid e quindi rendere tangibili e misurabili gli sforzi di persone e organizzazioni che si impegnano e vogliono iniziare ad impegnarsi a migliorare appunto la propria società, ma special modo le persone, perché le persone sono poi l'anima fondamentale di ogni comunità e appunto rendere possibile un curriculum sociale dedicato esclusivamente alle azioni sociali di volontariato, che quindi possa rendere anche qualcosa di veritiero lo sforzo, l'impegno che ogni persona vuole e può metterci, è assolutamente importante. Anche in termini poi futuri, ci sono molti paesi come gli Stati Uniti, il Messico, dove avere un curriculum sociale è di primaria importanza per gli studenti qualora volessero accedere a determinate università o posti di lavoro. Questo ambito sicuramente verrà riprodotto anche in Italia e in Europa sicuramente nei prossimi anni, quindi avere una persona, uno studente, un giovane al giorno d'oggi interessato anche a sviluppare il suo curriculum sociale, secondo me è un valore aggiunto per ogni persona. Cambiamo argomento, parliamo di turismo e di strumenti per agevolarlo. Dall'idea di due giovani torinesi è nato l'indice di sicurezza dei viaggi, che consente di monitorare riaperture delle frontiere e il livello di allerta sanitaria in tempo reale in ogni singolo stato nel mondo. Uno strumento disponibile sul portale generazioneviaggio.it. Dallo stesso contesto nasce anche esploraitalia.it, un progetto per rilanciare il turismo italiano dopo il blocco di questi mesi, una sorta di generatore di idee per viaggi anche a chilometro zero. Tiziano Salerno. Il fine è quello di far riscoprire l'Italia agli italiani e di creare comunque un vero e proprio movimento, quindi Esplora Italia vuole anche coinvolgere tutti gli operatori del mondo del turismo, riunirli diciamo a corte, collaborare insieme per promuovere il rilancio del turismo in Italia e ovviamente della situazione economica. Voi puntate anche su un turismo a chilometro zero, quindi quelle mete anche vicine che non si conoscono e che sono tutte da scoprire. Sì, infatti sul portale Esplora Italia, oltre a poter trovare idee di viaggio in tutta Italia, si può anche selezionare la modalità intorno a me. Nella modalità intorno a me avrete un raggio di azione di 100 km, quindi possiamo scoprire dei tesori non solo in Italia ma dietro casa nostra, e quindi è proprio la riscoperta dell'Italia partendo dal locale. La cosa bella poi è che chiunque può interagire in questo sistema e potete suggerirci nuovi punti di interesse, quindi è un'opera di riscoperta dell'Italia collettiva. La modalità è proprio come se fosse una sorta di slot machine, un generatore di idee. Schiacciando il pulsante Esplora sulla home page, il sistema ci proporrà una destinazione di viaggio, un punto di interesse in Italia casuale. Possiamo anche filtrare per regione, per interesse, se vogliamo cercare solo un sito UNESCO, una spiaggia, un borgo, solo borghi. Quindi c'è possibilità anche di customizzare un po' la ricerca in base alle proprie esigenze, volontà o desideri. Nasce come generatore di idee di viaggio, ma è praticamente un pretesto per portare avanti un movimento che vuole far riscoprire agli italiani l'Italia, e quindi è proprio un movimento che vuole coinvolgere tutti gli operatori, quindi dai tour operator agli albergatori, gli enti del turismo, i ristoratori, e far ripartire l'Italia, perché noi abbiamo mappato 900 punti. L'idea è quello di proprio di far ingrandire pian piano questo portale e avere una mappatura più accurata possibile. Pronti per le flotte aziendali di biciclette e per lo smart working in albergo o ancora per i mobili di casa in affitto? La crisi rilancia la rental economy, l'economia del noleggio. Ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pausa. Restate qui. Essere e avere. Allora, Louise di St. Louis, mi resta una sola domanda. Ok. Come può una ragazza disoccupata con tre coinquiline permettersi una patchwork denim bowlie di Louis Vuitton? L'ho affittata. Borsa, in prestito o rubarla? Ma come il noleggio dei DVD. Focus sui trend. Tra le rivoluzioni che la crisi imporrà nel mondo dei consumi c'è sicuramente la spinta verso il noleggio, l'affitto di un bene al posto della proprietà. Parliamo della cosiddetta rental economy, dunque altra cosa rispetto alla sharing economy, le cui criticità in questo periodo vi abbiamo già raccontato. La precarietà di questo momento, la difficoltà nel fare previsioni anche solo rispetto alla necessità di abitare, studiare, lavorare in un posto anziché in un altro e poi l'impossibilità di fare scelte definitive, di prevedere la propria capacità di spesa o anche solo le resistenze verso alcuni servizi spingeranno appunto l'affitto, come testimoniano i casi che ha rintracciato per noi Luisa Schiero di Future Concept Lab. Ciao Luisa, bentrovata. Ciao Maria Luisa e come sempre buonasera ai nostri ascoltatori. Il primo caso riguarda le biciclette, protagoniste di un vero e proprio boom. Ne ho approfittato per proporre questo nuovo modello di business, che è appunto quello legato appunto al rental rispetto all'acquisto. Decathlon, in particolare Francia, che già aveva tentato di fare con ottimi risultati, tra l'altro, un noleggio molto specifico nel settore del trading. E da lì è partito invece allargandosi alla quello del, diciamo, settore delle biciclette, che copre una maggiore tipologia di target e anche di esigenze. Ecco che su una piattaforma, MyPangee, offre tutta la propria gamma proprio di biciclette, dall'entry level alle quelle più sofisticate, diciamo magari elettriche anche o ibride, con la possibilità di noleggiarle su tutto il territorio francese, con dei pacchetti anche di servizi inclusi, a partire da cifre contenute come i 30 euro al mese, come dicevo, per la entry level, fino circa un centinaio, 93 euro al mese per le biciclette di fascia più alta. Si ha oltretutto una serie di proprio servizi molto interessanti, perché una volta all'anno si ha una revisione completa del mezzo, le riparazioni presso i laboratori o Decathlon o convenzionati, se non c'è un Decathlon troppo vicino a casa, ed eventualmente, pensate, nel caso la bicicletta dovesse subire dei danni, viene sostituita. Decathlon stesso afferma di volere cercare di introdurre questa nuova modalità di business anche presso le aziende, perché no, affiancare a quelle che sono le flotte di auto anche delle flotte di biciclette. E questo è un segnale di cambiamento di scenario veramente molto interessante. Passiamo alla dimensione condominiale. In quarantena i condomini, in quanto microcomunità, hanno dimostrato di poter diventare veri e propri hub di servizi. Il prossimo caso va in questa direzione. Ci spostiamo negli Stati Uniti, in particolare a New York, ma in realtà l'azienda che ha realizzato questa nuova forma di servizio rental è israeliana e si chiama Tulu. Che cosa hai immaginato? Un po' osservando il fatto che molto spesso in questa grande metropoli americana le persone vivono in case di, insomma, appartamenti non particolarmente grandi e piuttosto costosi. Ecco che hanno ideato delle room, delle stanze dove è possibile affittare oggetti, prodotti, tendenzialmente del quotidiano, dai piccoli elettrodomestici a un videoregistratore, per esempio facendo degli accordi, non so, con la Dyson per l'aspirapolvere, ma anche giochi da tavolo, per esempio, anche legati un po' più a una socialità anche domestica, che appunto possono essere affittati anche solo giornalmente dai condomini e poi riportati ovviamente in questo periodo con una certa attenzione alla sanificazione, perché poi sono prodotti che vengono riutilizzati da altri condomini. Il piano di abbonamento varia anche in questo caso, a seconda delle esigenze, si può decidere utilizzare un prodotto solo per un giorno, piuttosto che utilizzare il prodotto che si sceglie per weekend o periodi più lunghi. Anche in questo caso l'intenzione è quella di allargare questi tool room anche agli uffici. Tra i settori più penalizzati dalla crisi, lo abbiamo detto più volte, il turismo, in prima fila gli alberghi, tutto il mondo quindi dell'ospitalità che sperimenta soluzioni per reinventarsi o comunque per sostenere questo periodo di transizione. Questo è un tema molto importante e in realtà poi si vede come a volte, come nei casi che vi racconto, i momenti di crisi possano servire per fare dei test, per provare a trovare delle nuove, forzatamente naturalmente, però delle nuove modalità di servizi in questo caso. Zoku è una società di ospitalità con sede ad Amsterdam che era specializzata nel home office, cioè proponeva spazi per coworking e coloro che viaggiavano per lavoro. È evidente che in questo caso purtroppo queste attività sono impraticabili e quindi ha operato una sorta di rebranding delle stanze dei suoi hotel o comunque di questi spazi di coworking, trasformandoli in spazi lavorativi da affittare anche soltanto per un giorno, una sorta di loft professionale privato. A chi sono rivolti? A tutte quelle persone che in questo momento non hanno la possibilità di lavorare a casa e nemmeno di andare in ufficio, ma anche nel loro sito dicono a tutti coloro che magari cercano un po' di tranquillità rispetto al fatto di magari non riuscire a lavorare tranquillamente per la presenza magari di bambini oppure per il fatto che più persone lavorano in contemporanea, in smart working nell'appartamento dove abitano. Ecco che in questo caso viene proprio offerto con un noleggio temporaneo che poi può durare il tempo che lo si desidera, uno spazio un po' racchiuso. Il secondo caso invece, sempre in Nord Europa, siamo in Svezia, a Lidköping, una città del sud. L'hotel Stad ha modificato radicalmente in questo caso l'utilizzo delle stanze, facendole diventare una sorta di ristorante a tempo, dei pop-up. Come si prenotava un tavolo al ristorante, si noleggia questa stanza che viene riarredata come se fosse proprio uno spazio living con tavoli, sedie e dove da 2 a 12 commensali possono poi eventualmente stare a dormire nelle stanze che sono chiaramente anche attrezzate come spazio per poi riposarsi. Molta precarietà, abbiamo detto, difficile in base al lavoro, anche all'università, decidere ora se trasferirsi e cambiare casa, figuriamoci comprarla. Grande mobilità dunque che si ripercuote di conseguenza anche sul mondo dell'arredamento, non solo su quello immobiliare. Questa è la premessa di scenario degli ultimi casi, Luisa. Sono due e sono uno negli Stati Uniti ancora e poi però torniamo in Italia. Allora, la prima è Father, è una società di arredo che ha lanciato a New York questo appunto nuovo modello di renting. 12 negli Stati Uniti è il numero di volte in cui in media la generazione dei millennial si sposta cambiando l'abitazione prima di acquistare una casa. E 8 miliardi, pensate, di chili più o meno di mobilio finisce in una discarica ogni anno. Sulla base di questi dati, un abbonamento di una serie, diciamo, sia di mobili che anche di accessori per tutti gli spazi della casa per una durata minima di 3 mesi, poi dopo può essere il prodotto tutto riscattato in maniera molto trasparente, perché ciascuna scheda ha sempre il prezzo di mercato del prodotto. In Italia, su questa scia proprio di trend un po', come diciamo, globale o comunque sicuramente anche internazionale, ecco che abbiamo la proposta dello studio Aperon di Macherio, Affordable, la possibilità di affittare con la cifra di 1 euro al giorno un tavolo di design realizzato dallo studio in legno naturale con un noleggio minimo in questo caso di 6 mesi e la possibilità di riscatto, venendo incontro da un lato anche al desiderio magari che le persone possono sempre avere in casa di modificare, cambiare, variare, ma d'altro canto anche una possibilità anche molto sostenibile di eventualmente dover spostarsi senza dover necessariamente poi non sapere cosa fare e magari buttare i mobili di cui invece potrebbe esserci un utilizzo ancora molto buono. Il consumautore. Benvenuti nel post-consumismo. Questo è il titolo di un intervento qualche giorno fa sul Sole 24 Ore a firma del guru del marketing Philip Kotler. L'emergenza coronavirus, ve lo stiamo raccontando fin dall'inizio, è destinata a cambiare tutto nel mondo dei consumi. Sono le riflessioni che condividiamo ad ogni puntata con il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, da quale spunto partiamo questa sera? Buonasera. Buonasera Maria Luisa, ma partiamo da un libro di cui si sta parlando molto, di Ilaria Capua, che si chiama Il Dopo, ma soprattutto perché è un sottotitolo che credo sia davvero emblematico, il virus che ha costretto a cambiare mappa mentale. Noi questa mappa la disegniamo da tanto tempo con te e in effetti è proprio così. Allora, qual è l'elemento da cui possiamo partire in questa nuova mappa mentale? Una valorizzazione del quotidiano. Il quotidiano in passato era considerato routine, era noioso, era ripetitivo, eravamo alla ricerca continua, no, di qualcosa di extraordinario, di fuori dal quotidiano. Nei mesi in cui siamo rimasti confinati in casa, invece, abbiamo capito quanto sia importante, ad esempio, la cura delle piccole cose, non solo della casa, ma anche della nostra vita. Questa valorizzazione del quotidiano si sta già facendo sentire e vedere, per esempio, anche nella comunicazione di molti brand, molti spot e campagne stanno proprio puntando su questo. Diciamo che dopo la fase di ringraziamento, sostegno per chi in qualche modo è stato impegnato in prima linea, siamo invece in una fase di nuovo stimolo, no? Di stimolazione, dove però l'elemento della cura, se ci facciamo attenzione, la cura del dettaglio, la cura di sé, la cura che non è più il narcisismo di ritorno del selfie, ma è davvero mettere al centro l'idea di salute, di benessere, perché abbiamo davvero capito che forse più che rappresentarci è importante curarci, ecco, curare la nostra integrità anche fisica. Si rischia in qualche modo una nuova retorica del racconto di marca, come evitare questo pericolo? Il rischio c'è, io credo che vada modulato con grande attenzione il racconto. Siamo ormai alle porte dell'estate, quindi questa dimensione anche di nuova energia, di aria pulita, in fondo al centro di tutto questo, se ci pensiamo, c'è stato il respiro, no? Questa dimensione è anche proprio di aria pulita, e allora anche creativamente dare spazio a questa nuova dimensione anche di leggerezza, ci può esserci di nuovo l'ironia, che era meglio evitare, no? Nei mesi caldi. Ecco, credo che i creativi abbiano davvero da sbizzarrirsi, così come anche gli architetti e i designer, nel progettare un mondo nuovo che andremo ad abitare. Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere. A domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.